Evviva la spontaneità brillante che vive dentro uno squarcio di colore. Il quadro è uno spettacolo allucinante. C'è un sorriso magico cangiante. Rimango estraniato da questa atmosfera. Una geisha mi guarda dal suo dipinto e prende una forma vitale sublime che non sono così bravo a descrivere. Affascinante come Satana. Sei spuntata dalla tela di un artista raffinato. Io ti sogno in carne ed ossa per vederti danzare su note orientali. Affascinante come Satana e la sua intelligenza. Affascinante come un mecenate genere col suo dipendente. Affascinante come il contrasto tra dolcezza e perversione. Ti ho trovata tra i dipinti di una tisaneria del Giappone, tra le spezie inebrianti, tra i profumi di un'accesa sensualità. Affascinante come Satana e la sua intelligenza. Affascinante come un mecenate generoso col suo dipendente. Affascinante come il quanto quadro c'è per porzione.